Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non ho ancora capito perché nel deserto io mi senta così bene, nel corpo e nello spirito. Non so quante volte ancora ci dovrò tornare per capirlo e non so se mai lo capirò. Sono Mirka di Venezia, faccio la commercialista e amo molto viaggiare. Con la famiglia faccio le vacanze e da sola faccio i viaggi. Sono due cose diverse. L'ultimo giovedì dedicato alle storie di viaggio. Oggi due storie di viaggio diverse. La prima è quella di Mirka, che avete sentito presentarsi. Ci porta nel deserto bianco, quindi preparatevi a un po' di caldo e andiamo in Egitto. In Egitto, in questo deserto che è completamente calcareo, e lei lo racconta benissimo. Illumina tanto è bianco. E nella seconda parte invece andiamo insieme, possiamo dirlo, uno dei nostri, Emilio Previtali, ha mandato due storie a questo programma, le abbiamo raccontate. Qualcuno di voi se lo ricorderà, probabilmente allo scorso live del mese di giugno nel 2013, era quest'anno, era il ragazzino che il Natale di tanti anni fa si era trovato da solo e si era infilato nel letto con due ragazze. Lui, che è uno sciatore, un freerider, uno scalatore, sta per partire insieme a Simone Moro, che è un grandissimo alpinista, anche lui è stato ospite nostro, oltre che di varie puntate di Radio 24, sta per partire per il Nanga Parbat. Tutto questo oggi nella puntata del 12 di dicembre del 2013. Buongiorno a tutti, sono le 16:11 in punto. Questa è Radio 24, il programma è Voi siete qui, in diretta da Milano, dove è calata una nebbia che sembra di stare dentro a un bicchiere di acqua di anice. Per citare, che cos'è? Questa che cos'era? Era una Topolino Amaranto? Era Paolo Conte? No, era la fisarmonica di Stradella, credo, ma chiediamo a Margherita di confermarcelo. 349-238-6666. La storia di Mirka, quella di Simone no, di Simone, perdonatemi, quella di Emilio no, perché va in compagnia, va appunto con altri due alpinisti sul Nanga Parbat. Invece Mirka ci racconta questo viaggio nel deserto bianco, che è un viaggio che ha fatto da sola. E quante volte vi è capitato di dire, sapete, ma vado in questo posto da solo, eh? Ma dove vai da solo? 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, che Voi siete qui Radio 24, Voi siete qui R24, il profilo Twitter. Il mio invece è semplicemente Matteo Caccia. Ma dove vai? Ma cosa vai a fare? Un po' perché sei da solo, un po' perché è un posto pericoloso. Voi stavate partendo, eravate pronti e magari anche voi avevate qualche remora e vi trovate pure la gente che vi dice, ma dove vai? Stai con questo tono, ma stai a casa, ma dove vai? 349-238-6666. Lo hanno detto anche a Mirka e lei invece è partita. Dovevamo essere in quattro, poi in tre, poi in due e infine da sola. Che fare? Rinunciare? No. Fidandomi delle rassicurazioni di Francesca, sono partita per quello che pensavo un viaggio difficoltoso e che invece si è rivelato un vero regalo della vita, accompagnata solo da due angeli custodi, Mohammed e Yasser, ai quali va un grande grazie per la loro pazienza, bravura e gentilezza. La meta del viaggio era il deserto bianco, però non attraverso le oasi, ma arrivando dal deserto occidentale, cioè facendo tutto un tragitto attraverso il deserto, non su strada. Sono rimasta da sola perché dovevamo essere in quattro ad andarci, poi per motivi vari ognuno di loro non è potuto venire, alla fine mi sono trovata da sola a decidere se tornare a casa o andare da sola. Lasciato il traffico ed il caos del Cairo, ci siamo subito diretti verso le formazioni basaltiche di Jebel Katrani, sovrastante la depressione di El Fayoun ed il lago Karun. Un sito con impressionanti maestosi alberi pietrificati, a dimostrazione di che cos'era una volta il Sahara, e circondati letteralmente da fossili affioranti numerosissimi e un piccolo tempio isolato nel nulla, Qasr es-Sagat, risalente al Medio Regno e dedicato al dio Sobek, il dio coccodrillo. Abbiamo quindi raggiunto le rovine di Dime es-Sebua, un'affascinante apparizione, quasi un'installazione di Fischer Rabonevich. Primo picnic in uno scenario incredibile, nel mezzo di un gioco di bocce per giganti. A fine giornata, montaggio della tenda nell'hotel da un milione di stelle che si può trovare solo nel deserto. Il mattino dopo, di buon'ora, partenza per Wadi Heitan, dove troviamo resti pazzeschi di archeoceti, cioè degli antichissimi progenitori delle odierne balene. I fossili mostrano resti di arti nascosti, testimoniando così l'evoluzione dei cetacei da forme di vita terrestri a forme di vita marine. Con orgoglio patriottico riscontro che la cura con cui è stato sistemato il sito è dovuto anche alla collaborazione di un istituto italiano. Frastornata tra l'interesse per i fossili e il fascino delle formazioni rocciose modellate dal vento, si parte verso Abu Muarek, un cordone di dune impressionante, circa 600 km di lunghezza, impossibile da valicare anche dalle carovane che fino al secolo scorso percorrevano il Sahara. Il giorno successivo, attraverso un tavolato calcareo, senza mai incontrare esseri umani, ma solo qualche topo del deserto. E arriviamo alla Jara Cave, dove entriamo dopo aver chiesto agli spiriti che la abitano il permesso, naturalmente. Si prosegue con una sosta in un campo di meloni particolari, pietre calcaree rotonde e cotte dal sole. Improvvisamente, un sogno. Un paesaggio incredibile. L'Akabat, cosiddetto paesaggio difficile. Torrioni di roccia bianca immersi nelle dune. Il contrasto tra il colore caldo della sabbia e il bianco del calcare è qualcosa di difficile da descrivere. È come se gli occhi non bastassero per poter godere di uno spettacolo simile. Da qui ci si immerge nel deserto bianco. Every time I think of Africa, I just feel I don't. I like this safari road, she said, I don't want to go. You have been crawling, you have been crawling. Il deserto bianco è un mare di banchi di sabbia color ocra e di roccia bianca. È un miracolo geologico fatto di pilastri calcarei e monoliti gessosi che, grazie al lavorio del vento, prende forme di uomini, di animali, di funghi, di fiori. Le sue dune sono interrotte da placche bianchissime, formatesi dopo il ritiro di laghi e di paludi che fino a metà dell'era terziaria bagnavano questa regione. Sì, perché qua giù c'era la savana, si cacciavano le gazzelle e vivevano i leoni. Oggi la sabbia copre una civiltà primordiale scivolata nell'oblio attraverso i secoli. E nelle valli, in passato letto di enormi fiumi, il terreno è disseminato ora da miliardi di pietre scavate dal vento e da conchiglie fossili. Sosta nell'oasi di Farafra, ma ogni volta è doloroso uscire da un paesaggio che a volte sento come un'allucinazione, ed è una felicità rientrarci. È nel Sahara ed è una meraviglia di calcare, perché dal giallo, dal color miele della sabbia si alzano queste forme incredibili, perché la sabbia le erode molto di più alla base, per cui normalmente sono delle strutture che hanno una base piccola per poi allargarsi a forma di coniglio piuttosto che di altro, di civetta o altro. È un posto fantastico. L'oasi di Farafra mantiene inalterate le caratteristiche di comunità del deserto. Murales ingenui e simbolici dipinti sulle case. Il viaggio alla Mecca in aereo o in nave. Momenti di vita vissuta da ricordare nel recupero di una identità spirituale. Neanche le mummie di recente scoperte di Bahariya riescono ad affascinarmi quanto una natura dalla quale mi è difficile staccarmi anche la notte per dormire. Perché anche di notte è uno spettacolo pazzesco. Non ho ancora capito perché nel deserto io mi senta così bene, nel corpo e nello spirito. Non so quante volte ancora ci dovrò tornare per capirlo e non so se mai lo capirò. È difficile spiegare cosa significhi eliminare tutto il superfluo, tutto ciò che ci distrae dal sentire la vita nella sua essenza. Non so trovare le parole, ma mi basta chiudere gli occhi per essere ancora là, sotto quel cielo così profondo e così vicino nello stesso tempo, con delle stelle che non assomigliano neanche lontanamente a quelle europee. Il deserto è un'infinita varietà di colori, sotto una luce instancabile, mai uguale, generosa di riflessi e avida di ombre. È l'immersione nell'ignoto, il naufragio nell'immenso, senza tempo. Uno spazio sconfinato dove la nostra dimensione diventa quella di un granello di sabbia e si diventa parte di tutto. È svegliarsi la mattina con la meraviglia di un nuovo mattino, la straordinaria ebbrezza di respirare solamente e di vivere solamente. Un proverbio berbero dice: Dio ha creato il deserto perché l'uomo potesse conoscere la propria anima. E ci sono momenti in cui ci si sente divorati dalla propria anima nel deserto. Dopo aver conosciuto il deserto non si può restare gli stessi, e il più profondo dei desideri è ritornarci. Qui non si viene mai per la prima volta e quando te ne vai non lo fai mai per sempre. ha scritto così Antoine de Saint-Exupéry: mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia, non si vede nulla, non si sente nulla, eppure qualche cosa risplende nel silenzio. Ed è ovviamente nel deserto bianco, andate a vederla la foto che ci ha mandato Mirka, perché è veramente splendida, sulla nostra pagina di Voi Siete Qui sul sito di Radio 24. Lei ha su una magliettina bianca di cotone, dei pantaloni verdi color khaki. No, direi di no, perché il khaki non è verde, vabbè. E ha in testa una sorta di turbante. Alle sue spalle questo mare bianco di sabbia e di dune. E però dal deserto bianco dell'Egitto noi ci spostiamo su un altro deserto bianco, che in realtà adesso sta a pochi chilometri da qua perché sta a Bergamo, però noi ce lo immaginiamo di fatto già pronto per partire per il Nanga Parbat. Pronto Emilio? Pronto. Come stai? Benone, grazie. Allora facciamo una veloce ricapitolazione. Emilio Previtali, dicevo, ci ha mandato due storie almeno. Ci ricordi quali erano, Emilio? La prima qual era? Mi ricordo beh, quella del Natale. Quella del Natale ce la ricordiamo bene, se la ricordano tutti quelli che erano presenti al live dello scorso giugno. E la prima invece? In funivia, forse, una storia di una risalita in funivia o qualcosa del genere, se non mi sbaglio. Non lo so, perché forse erano... Il mio sci, sì. Ah, sullo sci, è vero, certo, la giornata in sci. Perché, di fatto, quando noi sentimmo Emilio la prima volta, io gli chiesi, ma Emilio, tu cosa fai nella vita? E tu mi dicesti lo sciatore, giusto? Sì, è vero. In realtà, però, fai molto altro. Io leggo da un giornale online: Emilio Previtali, la mia vetta sarà aiutare Simone Moro e David Goettler per tentare la prima salita invernale al Nanga Parbat, 8126 metri. Cosa ci vai a fare esattamente sul Nanga Parbat, Emilio? Io ho provato a spiegare dicendo che ci vado un po' come Bergomi, che fa il difensore, e poi il suo compito non era quello di buttare la palla in gol, ma cercava di fare altre cose. Però se si è trovato davanti alla porta, anche lui qualche volta l'ha buttata dentro. E il mio compito è quello di raccontare la storia di Simone e di David, ma allo stesso tempo di aiutarli sulla montagna. E quindi serviva un alpinista e io so fare abbastanza tutte e due le cose, quindi vado con loro. Quindi sarete semplicemente in tre o ci saranno più persone? No, ovviamente. Siamo in tre, più ci saranno due ragazzi pakistani che ci aiuteranno, diciamo, al campo base per quello che è l'aspetto, diciamo, di logistica, per preparare da mangiare e tutto quello che serve per vivere, insomma, un po' almeno con un minimo di conforto al campo base. Parliamo un po' di geografia, giusto perché, appunto, per gente come me che non ha idea. Allora, innanzitutto si dice Nanga Parbat o Nanga Parbat? Nanga Parbat. Nanga Parbat si trova in Pakistan, giusto? In Pakistan, è una delle cinque montagne di 8000 metri che ci sono sulla Terra, e diciamo è l'unica montagna che è un pochettino isolata rispetto alle altre montagne, ed è l'ultima insieme al K2 che non è mai ancora stata salita in inverno. È stata tentata 17 volte, mi pare, ma non è mai stata fatta. Tra l'altro lo stesso Simone Moro ha già provato a salire nel 2011-2012, leggo. Due anni fa. Sì. E non c'è, dobbiamo preoccuparci, Emilio, facci capire, dobbiamo stare in pena per te o no? No, non dovete stare in pena, dovete stare tranquilli. Ok, e leggere magari quello che scrivi, perché tu appunto dicevi, hai un ruolo duplice, no? Da un lato organizzi acclimatamento eccetera eccetera, e poi racconti la storia, visto che le sai fare bene, per vari profili Facebook, profili social, sì, tra cui quello di North Face, giusto? Esatto, sì, il mio compito sarà quello di raccontare, e poi diciamo uno degli altri nostri compiti è portare a casa un piccolo film documentario e cercare di farlo bene, insomma. Ma quindi giri anche tu? Sì, quello è il classico posto dove non si può far venire un filmer, noi dobbiamo fare tutto da noi, e quindi dovrò anche fare quello. Bisogna fare un po' tutto, quando fai l'alpinista devi fare tutto. Che macchinetta avrai dietro? Una roba semplice? Ho una bella macchina digitale, perché lo scopo è quello di fare un film in HD, in di qualità alta, sì. Dici i tempi, allora parti quando? Parte il 26 di dicembre? Di dicembre. settembre, poi abbiamo a grandi linee un 10 giorni per arrivare al campo base, abbiamo in totale un mese per acclimatarci e poi bisogna portare pazienza e aspettare se c'è una finestra di bel tempo, sperando che arrivi, perché questa è la grande incognita. Noi dobbiamo essere pronti, un po' come un surfista che aspetta l'onda, poi non sappiamo mai se quell'onda lì, quando arriva, se arriva, però noi dobbiamo farci trovare pronti. Scusa Emilio, quindi allora tu parti il giorno dopo Natale, quindi ti fai Natale a casa con la famiglia, questo ci conforta. 25. Sì. Tu parti il 26, però prima, da quanto mai detto, 10 giorni, un mese di acclimatamento, prima di febbraio non se ne parla di nulla. Per tentare la cima ed essere, diciamo, in condizione fisica di tentarla, bisogna aspettare l'inizio di febbraio. Perché, e quindi perché da lì in avanti si può pensare di andare in cima. Perché ci si mette un mese ad abituarsi. A quale altitudine innanzitutto? Il campo base a che altitudine è? È molto basso, perché è a 3800 metri, quindi abbiamo in realtà poi un piccolo campo avanzato dove staremo un pochettino di più per acclimatarci. Mm. E poi la montagna, insomma, è una delle più grandi montagne come dislivello da salire, insomma, quindi questo è un po' il vero problema. Però scusami Emilio, è sempre per uno che non ne sa nulla, allora voi state al campo base, giusto? Sì, cioè, sì. Quando dopo un mese siete sì. pronti ed aspettate sta finestra di bel tempo, giusto? Sì. Perché poi il problema dell'inverno è quello lì, sì. sul Nanga Parbat, ma sì. un po' dappertutto, sì. ma l'immagino. Da quando, ok, domani è bel tempo, sì. partiamo immagino non alle 9 del mattino, ma che ne so, alle 3 della mattina, quando partite, sì. quanto ci si mette ad arrivare su? Dipende da tanti fattori, calcoli che comunque intanto facilmente si partirà col brutto tempo per sperare con le previsioni del tempo di arrivare col bel tempo, perché poi è il momento più critico della salita. Okay. E la cosa importante da fare è diciamo conservare un buon margine per la discesa. Ci vuole a grandi linee calcolare tra i 5-6 giorni per fare tutto, e poi si può essere molto veloci se le condizioni sono adatte, chiaro, anche sarebbe meglio riuscirci, perché finestre di 6-7 giorni sono praticamente impossibili, e quindi bisogna, è un gioco un po' anche matematico di logistica, di capire le previsioni del chiaro. Tempo, tutto. Quindi sostanzialmente da 3008 si hanno 6-7 giorni per andare e tornare dal campo base. Ok, è chiarissimo. Dove possiamo seguirti, Emilio? Dove possiamo, visto che racconterai tu questa avventura? Su The North Face avrà un blog dove ci sarà, diciamo, il racconto, oppure se non vi ricordate potete andare sul mio nome, sul mio sito, e qualche link, insomma, lo trovate, Emilio Previtali, lo trovate emilioprevitali.com, altrimenti The North Face, o altrimenti ovviamente Emilio, noi ci aspettiamo questa volta un racconto tutto per noi per quando torni. Volentieri. Allora, poi da là avrò anche Skype, avrò la possibilità di sentirmi. E allora magari ci sentiamo da là. Okay. Allora magari ci sentiamo da là. Emilio, fai buon viaggio, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao, a presto, grazie. Ciao, ragazzi, ciao, ciao. Ciao. Abbiamo chiuso, ringrazio ovviamente Emilio Previtali, a cui auguriamo una buona ascesa verso il Nanga Parbat. Ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Scaricate il podcast di questa trasmissione dal sito di Radio24, da iTunes, dalle app varie, soprattutto quella di Radio24 del vostro smartphone. Se avete voglia, raccontate storie e inviatela a voisietequi@radio24.it. Grazie soprattutto a Mirka, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso sulla mappa. Lo so. Ciao, sono Cristina di Vinipende, in provincia di Mantova. La storia di domani è la mia, parla di avere 40 anni. Questa è la mia storia e io sono qui. Lo so. Franco Rosso, la vacanza con qualcosa in più. Vi ha presentato Voi siete qui, qui, qui. Libero professionista? Passa a tutto di Impresa Semplice. Con 75 euro parli da mobile, da fisso e navighi senza limiti. Acquistala chiamando il 191. Impresa Semplice, il braccio destro per il business. Offerta valida fino al 31 dicembre 2013. Per costi e condizioni chiama il 191 o vai su impresasemplice.it. Per un animo gentile, un carattere impulsivo, uno spirito romantico. Most. Dalla tradizione di Beppi Tosolini, l'acquavita d'eccellenza distillata a vapore. Most. Distillato in purezza. Commercialista, impresa. L'aggiornamento quotidiano ti assilla? Con Solmap tutto è sotto controllo. E approfondisci quando vuoi, come vuoi, dove vuoi. Visita solmap.it, la tua formazione in un click. Open.com, conta su di noi. Aceto balsamico di Modena del Duca. Un profumo inconfondibile, frutto delle generose terre modenesi. Un aroma prelibato, unico. Sulla tua tavola e su quella degli amici più cari, per un Natale al vertice del sapore. Aceto balsamico del Duca. Per contattarci www.acetobalsamicodelduca.it. Se stai cercando agenti o commerciali, agenti.it pure a Natale. Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Pure a Natale. Astigiano, Monferrato, Le Langhe. Terre uniche al mondo, dove nascono i grandi vini e gli spumanti Duchessa Lia. Grandi DOC e DOCG, ideali in ogni occasione. Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte. Giorgio, pronto per la cena di Natale? Bella Vane, chiamo Lavi, Ludo e domando una cifra di SMS e andiamo. Ma come parli? Tranqui, pago come i giovani e mi sono sparato un regalo speciale. Solo fino a Natale All Inclusive diventa special. A 8 euro al mese, 250 minuti veri, 250 SMS verso tutti, internet illimitato, power ed un giga. Scade il 27 dicembre, dopo un giga, velocità max 32 kbit per secondo, info e costi su win.it. Certo. Giovane, due finestre aperte su internet e ti sei raffreddato. Nei negozi Win. Borse in diretta. Il quadro sui mercati finanziari internazionali oggi è negativo ovunque, negativa anche Wall Street, che a un'ora dall'apertura delle contrattazioni ha un ribasso di mezzo punto percentuale sul Dow Jones, il Nasdaq è sulla parità, lo Standard & Poor's perde lo 0,23%. Questo a dispetto dei dati macroeconomici che sono stati diffusi oggi e che sono apparsi particolarmente buoni, in modo particolare il dato sulle vendite al dettaglio di novembre, che sono cresciute dello 0,7%, quindi il test dei consumi è stato superato. Un dato al di sopra delle attese che però non scalda più di tanto il mercato, anche se ha permesso al dollaro di recuperare un po' di punti rispetto all'euro. L'Europa rimane negativa, lo è da stamattina, Parigi perde lo 0,3%, Francoforte meno 0,65%, Londra meno 0,9%, la peggior piazza d'Europa, Milano, che anche oggi mette a segno un ribasso di oltre un punto percentuale. Le vendite tutte concentrate sui titoli delle banche popolari, l'Emilia Romagna perde il 3,60%, meno 3% per il Banco Popolare e la Popolare di Milano, perde 3,5 punti anche Prismian. In rialzo invece da stamattina A2A per la cessione delle quote da parte del Comune di Milano e Brescia, il gruppo è in rialzo del 4%, Buzzi Unicem più 3,84%, Ansaldo per il ricambio ai vertici guadagna 2 punti percentuali. È tutto, i mercati tornano con Fox Economia. Attento. Apri gli occhi, dai. Non spegnere la luce della vita. Pensaci. In un anno 3.653 morti per incidenti stradali. Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Ripide e bellissime colline. Grappoli raccolti a mano con sapienza antica. Un sorso fresco, fruttato e floreale unico. Una terra. La sua gente. Conegliano Valdobbiadene, dove il prosecco è superiore. Lo tutela il consorzio della Diocesi. Andy Warhol torna a Milano con una grande monografica a Palazzo Reale. In mostra oltre 160 opere che ripercorrono l'intera carriera artistica del padre della pop art americana. Dai primi disegni fino alle reinterpretazioni dell'Ultima Cena, gli autoritratti e i fiori, passando per le celebri serigrafie di Marilyn e di Mao. Una mostra unica e imperdibile fino al 9 marzo a Palazzo Reale di Milano. www.warholmilano.it